Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Ladies and gentlemen, madame e messie, signore e signori, benvenuti al Soundcheck di Radio 24 e quest'oggi diamo il via alle nomination del Soundchecker Play Music Awards. Come sono felice! Applausi, applausi. Sì, scattano gli applausi. Buonasera Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Ebbene sì, abbiamo parlato del Soundchecker Play Music Awards nelle ultime settimane, tanto per ricordare quello che abbiamo fatto anche nella passata stagione, ovvero celebrare gli artisti che più di altri hanno caratterizzato il suono di questo nostro programma. Eh sì, perché comunque siamo riusciti a passare una quantità di musica importante anche proprio dal punto di vista della qualità. Devo dire che riascoltando, facendo la lista appunto delle nomination, devo dire che secondo me è tantissima bella musica. Grazie Francesco, ma infatti lavoriamo assiduamente per ricercarla la buona musica e molto spesso dobbiamo proprio andarla a rintracciare utilizzando anche una metodologia che non è proprio tradizionale. Eh sì, perché diciamo che nel panorama mondiale della musica che viene fuori è difficile riuscire a selezionare la roba, la musica che realmente vale, perché esce una quantità di dischi impressionante al giorno, è come se ci fosse appunto un overload di musica. Eh sì, poi bisogna tenere sotto controllo non solo la discografia ufficiale, quella che viene proposta e distribuita dalle major, ma anche quella delle etichette indipendenti e poi quella che viene distribuita solo ed esclusivamente in digitale, quella che le band propone utilizzando magari i siti di riferimento dei quali spesso abbiamo parlato, come Bandcamp e SoundCloud, che oggi non se la vede proprio poi tanto bene. No, in realtà sta iniziando a programmare la sua risalita, vediamo un po' che cosa succederà, bisogna vedere se diventerà come Spotify oppure se cercherà un'altra via, vediamo un po'. Ho notato però che gli artisti italiani, forse anche stimolati dai nostri suggerimenti, hanno iniziato a utilizzare anche loro internet e quindi siti come Bandcamp e SoundCloud, visto che poi non ci sono più tanti sbocchi attraverso la discografia. Sì, anche perché funzionano, vedo come guardando appunto i dati ci sono comunque delle tariffe, diciamo, che sono abbastanza eque tra i distributori di Bandcamp e gli artisti. Bene, torniamo invece al Soundchecker Play Music Award, passiamo alle nomination. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato brani, album e artisti andando a ripassare la stagione che si sta per concludere, perché praticamente ci mancano a partire da oggi soltanto 4 weekend, chiudiamo a fine giugno, poi ci saranno le repliche durante l'estate qui su Radio 24 e poi vi informeremo sul nostro probabile ritorno qui con il Soundcheck. Ma veniamo a oggi, quindi Soundchecker Play Music Award. Come abbiamo lavorato? Abbiamo ripassato il tutto, abbiamo tirato giù la lista degli artisti più programmati, ma anche quelli più richiesti dai nostri radioascoltatori, quelli che sono stati sempre in contatto con noi utilizzando, come diceva Francesco Tromba, la nostra email, ma anche Facebook e Twitter. Abbiamo tirato giù questa lista e adesso noi ve la sottoponiamo, quindi potete esprimere il vostro giudizio. Intanto troverete le varie categorie esposte su Facebook ma anche su Twitter, quindi potete esprimere il vostro giudizio. Sì, anzi sai che faccio? Se riesco faccio anche una bella playlist su YouTube, così possono anche ascoltare i nostri cari radioascoltatori quello che abbiamo passato in questa stagione. Magari, se riesci a farlo nei prossimi giorni, dai. Sarebbe una cosa utile anche per noi. Oppure puoi segnalare i link dei vari artisti, dei vari brani, dei vari album, e così gli artisti avranno dei riferimenti e non solo gli artisti ma anche i nostri radioascoltatori. Sì, diciamo che magari con Prince, che è uno dei candidati tra i migliori album R&B, sarà un po' più difficile riuscire a trovare i pezzi. No, adesso c'è tutto, da quando è scomparso poverino hanno messo tutto in rete. Ma partiamo proprio con una delle ragazze prodotte da Prince quest'anno, si chiama Judith Hill, perché il suo album naturalmente è nella nomination fra Best R&B Album. Lei si chiama Judith Hill, il brano è Wild Tonight. Si intitola Back in Time l'album di Judith Hill, in nomination qui al Soundchecker Play Music Award per questa ragazza tanto amata da Prince, tanto amata che infatti ha prodotto anche per lei questo nuovo album. Judith Hill è in nomination anche un altro artista che noi abbiamo proposto tanto, finalmente lo conoscono anche in Italia, non in tantissimi, ma si farà apprezzare dopo la prossima estate, perché la prossima estate sarà in giro in Europa e quindi anche i nostri italiani lo vedranno per esempio in azione al North Sea Jazz Festival, perché non mi sembra abbia concerti proprio da noi. E vi stiamo parlando di Anderson .Paak. Eh sì, questo è uno dei miei dischi in assoluto preferiti di quest'anno, perché è veramente potentissimo dal punto di vista ritmico, dal punto di vista anche dell'innovazione, della contemporaneità, della band, perché ha dei musicisti veramente bravissimi, e anche proprio dal punto di vista della creatività, perché ha fatto anche diversi video su YouTube che potete trovare, che sono molto interessanti, e anche dal punto di vista visuale Anderson .Paak è un genio. Si intitola Malibu il nuovo album di Anderson .Paak, qui con Schoolboy, il brano si intitola Am I Wrong. Soundcheck, il suono della musica. Terry Lynn Carrington, anche lei in nomination fra i migliori album R&B per il Soundchecker Play Music Award di quest'anno. Terry Lynn Carrington ha messo su un cast eccezionale, tutte donne di prima grandezza, cantanti, vocalist fra le più apprezzate ormai da tanto tempo, ormai da anni, come la bravissima Chaka Khan, protagonista di questa versione di I'm a Fool to Want You, un vecchio brano portato al successo ormai non so quanti anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, dalla formidabile Billie Holiday, ma qui rivisitato in chiave funk e R&B. Eh sì, anche questo un gran bel disco, assolutamente da ascoltare tutto, non c'è una traccia che sia noiosa o inutile in questo disco. Gli abbiamo dedicato una bellissima puntata proprio pochi giorni dopo la sua scomparsa, sì, e quindi non potevamo non inserire il nuovo album di Prince, l'ultimo, il più recente, fra i migliori album della stagione per quel che riguarda l'R&B. Devo dire che ha sfornato due volumi, il primo a noi non era piaciuto tantissimo, ma poi col numero due, tornando al passato, Prince ancora una volta ha imposto la sua mentalità, il suo talento e il suo suono. Eh sì, e devo farti anche i complimenti per la puntata che hai fatto in sua memoria, perché fortunatamente non hai passato Kiss, ormai era praticamente ovunque, in tutte le televisioni, in tutte le radio, perché purtroppo alcuni si sono limitati appunto a Kiss e Purple Rain, per loro Prince finiva lì, invece Prince è un mondo, Prince è un genere musicale da solo, è un genere a parte. Assolutamente sì, ed è quello che ho voluto fare, celebrare non la pop star con i lustrini, ma celebrare il musicista, il compositore, l'eccellente producer che è stato Prince. E secondo me prossimamente ascolteremo ancora tanta musica che sta venendo fuori dagli archivi di questo eccellente artista, che qui è presente al Soundcheck con Hit and Run, il Phase 2, quindi il secondo volume. Il brano si intitola Extra Lovable. Soundcheck, il suono della musica. Podado Head People, brano intitolato Love You, e la voce affascinante, assolutamente riconoscibile, di questa vocalist chiamata Amelia, un po' il nome da fattucchiera per questa ragazza. Allora, Podado Head People non hanno preso la nomination al Soundchecker Play Music Award, ma visto che siamo agli sgoccioli, mi sembrava il caso di riproporre il sound di questa band che a noi tanto è piaciuta. Eh sì, perché comunque non dobbiamo solamente celebrare i grandi nomi dell'R&B, ma anche questi nomi un pochettino più underground, diciamo. Ma è quello che abbiamo fatto tutto l'anno, ecco, forse fra i meriti che ha la nostra rubrica, a te non piace il termine rubrica no? Ma a me piace perché è un po' old school, no? Fra i meriti che ha il nostro programma, allora, c'è proprio quello di aver proposto tanta musica nuova, tanti giovani artisti, tanti talenti che forse si faranno conoscere prossimamente. Eh sì, quindi ricordiamo ai radioascoltatori che possono votare via via Twitter, via Facebook o tramite l'email soundcheck@radio24.it quelli che sono i loro preferiti nel Soundcheck Airplay Music Awards. Ricapitoliamo un attimino quelli che sono gli album selezionati in nomination per il Best R&B. Allora, partiamo da Prince, Hit and Run Phase 2, cioè la seconda fase di Hit and Run. Sì, due volumi. Sì, poi Anderson .Paak Malibu, Terry Lynn Carrington, The Mosaic Project, Love and Soul, Judith Hill, Back in Time, e poi? E poi, naturalmente, non potevamo non inserire una delle artiste più programmate quest'anno, la bravissima, meravigliosa Jill Scott, che diventa fisicamente sempre più abbondante. Eh sì, io però ho postato... non perde comunque il suo fascino. Assolutamente il suo fascino. No, Jill Scott, il brano che vi facciamo ascoltare per presentarvi l'album intitolato Woman, ultimo lavoro per lei, bellissimo, molto ben realizzato, il brano è Prepared, e naturalmente con Jill Scott chiudiamo la prima parte del soundcheck e ci ritroviamo qui dal Groove Master Studio subito dopo l'informazione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Grazie per la linea, di nuovo collegati con il Groove Master Studio dopo l'informazione di Radio 24, seconda parte della nostra prova del suono, seconda parte per tornare a parlare del Soundcheck Airplay Music Award. Abbiamo già citato gli artisti in nomination per il Best R&B Album. Che sono, ricapitoliamo. Prince, sì. Jill Scott, Anderson .Paak, Terry Lynn Carrington e Judith Hill. E adesso in questa seconda parte invece parliamo di una delle nostre categorie preferite, ovvero Best New Talent. Sì, perché siamo riusciti a scovare questi artisti in giro per il mondo e devo dire che sono molto interessanti alcuni di loro, in realtà tutti per me, perché ognuno a suo modo cerca di portare qualcosa di nuovo sulla scena musicale. Sì, alcuni ci hanno proposto il loro album, altri ci hanno proposto i loro MP3, altri li abbiamo proprio scovati in rete. Fatto sta che, per esempio, quando abbiamo parlato per la prima volta di questo giovane chitarrista producer inglese Tom Misch, nessuno lo conosceva e adesso invece abbiamo notato che sta producendo tanto materiale interessante. Sì, è anche grande amico di Jordan Ra, che è uno dei candidati dello scorso anno al Soundcheck Play Music Awards tra i migliori talenti, quindi in un certo senso si sono passati il testimone forse. Tra gli altri candidati come migliori talenti vediamo anche Shante Khan, che abbiamo conosciuto grazie agli Snarky Puppy, ha prodotto anche lei un nuovo disco solista. Poi ci saranno anche Madison McFerrin, Claffy, un progetto che a me è piaciuto tantissimo. Vuoi introdurlo tu? Sì, stiamo parlando di Donny Trumpet and the Social Experiment, un progetto collettivo nel quale si ritrovano un po' tutti gli artisti della nuova generazione dell'area californiana, da Anderson .Paak a Chance the Rapper, insomma una bella comitiva. Sì, un bel collettivo che è capitonato solo nel nome da Donny Trumpet, perché in realtà questo trombettista bianco è una delle anime di questo collettivo, ma non la principale, perché il principale animatore è Chance the Rapper. E allora, Chance the Rapper, Donny Trumpet and the Social Experiment, la voce di Jamila Hoods in questo brano molto piacevole, molto divertente, che si intitola Sunday Candy al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Un brano del super premiato Quabs inglese, brano intitolato Cheating on Me, ma la voce era, c'era anche la voce di Zac Abel, ma non è né di Quabs né di Zac Abel che noi vi vogliamo parlare, bensì del talento del chitarrista producer inglese giovanissimo Tom Misch, presente qui al Soundcheck Airplay Music Award nella categoria Best New Talent. Eh sì, anche in Inghilterra sta succedendo un bel po' di bella musica, diciamo, perché l'anno scorso tra i Best New Talent c'era anche Quabs tra i candidati e quest'anno invece Tom Misch prende il testimone sia da Quabs che da Jordan Rakey, quindi la scena di Londra è veramente interessantissima come sempre da anni. Sì, insomma se la batte con quella americana. Eh sì. Poi in particolare nel rock, che noi non trattiamo tantissimo, è veramente forte. Sì, gli inglesi sono ancora più forti forse. Ancora più forti. Allora, Best New Talent per Tom Misch, stiamo parlando di questo questo ragazzo che vive praticamente chiuso nel suo studio di registrazione a casa e dove coinvolge tantissimi artisti. Abbiamo parlato anche della sua collaborazione con Jordan Rackey, molto spesso si fa accompagnare da belle ragazze, ma qui torna a collaborare con Zach Abel, anche questo ragazzo molto forte, inglese, una bellissima voce, una voce soul, ma anche molto versatile. Sì, in realtà sai che parlando con diversi miei amici, quando gli nomino questi nomi, spesso mi guardano strano, come a dire, vabbè, chi sono questi qui, chi li conosce, non li conosce nessuno. Per me magari in realtà appunto riuscire ad andare a un concerto di Tom Misch o anche di questi altri che sono in nomination per il Best New Talent può essere importante, mentre appunto per diversi miei amici magari non gliene frega niente. Questo per riprendere quello che è un tema che è stato trattato su Rock It circa un mesetto fa da Letizia Bognanni, in cui appunto ha scritto questo articolo che si chiama "Come discutere di musica senza distruggere delle amicizie". È vero, è carino. Sì, perché spesso magari appunto per me un artista importantissimo che per te magari è sconosciuto e io mi offendo quando tu me lo insulti. In questo caso appunto prendere le distanze non è facilissimo, perché in un certo senso la musica è anche quello che costruisce una persona, una personalità, dei sentimenti di una persona. Magari noi appunto vedendoci criticati, il nostro artista di riferimento, in un certo senso ci vediamo di riflesso criticati. Eh sì, io pure sono abbastanza condizionato dai gusti musicali di altre persone, però io ho imparato ad essere molto condizionato tollerante. Nel senso che se a loro non piace la stessa musica che piace a me, c'è poco da fare. Sì, io in realtà mi sono arreso perché ho capito che molto probabilmente non piacerà mai la musica che piace a me ai miei amici, quindi sono diventato molto più tollerante. Ma nel corso del tempo io ho avuto un sacco di problemi proprio per questo motivo nel corso di tutta la mia vita con gli amici, ma soprattutto con le amiche. Perché le donne secondo te capiscono ancora meno di musica? No, non ho detto questo, però perché c'è anche questa teoria, è difficile, no? Trovare delle compagne che apprezzino, che so, Charlie Parker e John Coltrane oggi, perché forse si informano un po' di meno, seguono un po' di meno il non passato. Ascoltano il soundcheck, questa è la verità. È vero. Ebbene, allora andiamo alla musica. Parlavamo di Tom Misch, eccolo qui con Beautiful Escape, la voce è quella di Zach Abel. Tom Misch al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Sound check, il suono della musica. Chasing memories. Cos'altro possiamo dire di Madison McFerrin? Cosa possiamo dire quindi della sorella di Taylor McFerrin, o ancora di più della figlia di Bobby McFerrin, questa ragazza diplomata in musica al Berklee College of Music, una ragazza della quale noi parliamo quasi come se fosse una parente ormai da un po' di tempo. Sì, potremmo dire magari che è anche una gran bella ragazza. È anche una gran bella ragazza, sì. Ma potremmo fare magari anche una sezione, il più bel nuovo talento del soundcheck, sì. Proprio da un punto di vista fisico. Sì, anche quello si potrebbe fare. Madison, no? McFerrin, certo, sarebbe tra le candidate. Ma con Leanne Lavas c'è poco da fare. No, vabbè. Oramai mi sa che non vince sicuramente. Va bene, torniamo al Soundchecker Play Music Award. Stiamo ricordando i nomi presenti nella categoria Best New Talent. Sì, li ricapitolo allora. Sono Shente Khan, Donny Trumpet and the Social Experiment, Tom Misch, Madison McFerrin che abbiamo appena ascoltato e Claffy. E Claffy, allora, quindi dobbiamo ancora ascoltare Claffy e Shente Khan. Sì, credo. Bene, allora andiamo a Binary Soul, perché questo progetto prima è venuto fuori soltanto a nome di Madison McFerrin, poi invece Madison McFerrin evidentemente ha preferito dare in qualche modo anche una voce al suo compagno di avventure, quindi il progetto si chiama Binary Soul featuring Madison McFerrin. Sì, anche perché diciamo rappresenta in un certo senso anche due anime, perché l'altro suo compagno è molto più, diciamo, concentrato magari sulla produzione, no? Ecco, allora, però insieme hanno portato a casa Best New Talent. Esatto. Nomination molto, per ora. Molto bello questo disco, assolutamente, lo consiglio. È un EP, se non sbaglio. È un EP. Bellissimo. Allora, dopo The Chase siamo pronti per ascoltare 4Play, altro brano presente in questo EP di Madison McFerrin, ricordandovi che comunque trovate tutte le categorie presenti nelle nostre pagine Facebook, in Twitter, quindi sarà più facile per voi poter esprimere il vostro giudizio, perché anche i vostri voti contano, oltre a quelli di una giuria fatta di esperti. Eh sì, anche gli ascoltatori sono dei giurati. Assolutamente sì. E andiamo con la musica? Sì, ascoltiamo. E vai, Madison McFerrin, 4Play al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Si intitola Journey to Golden, l'album di debutto per Shantae Khan, vocalist che noi abbiamo conosciuto come interprete per Snarky Puppy. Finalmente ha realizzato il suo album e ce la ritroviamo con il suo talento fra Best New Talent qui al Soundchecker Play Music Award, diciamo iniziativa con la quale vogliamo celebrare gli artisti che hanno caratterizzato il sound di questa stagione del nostro programma. Io la inserirei anche tra le più belle artiste del soundcheck, no? Facciamo, ecco, questa quindi, categoria. Nella tua categoria, cioè, come beautiful? Sì, the most beautiful girl on soundcheck. Allora abbiamo Shantae Khan, Madison McFerrin e Lihan Lavas. Sì, solo ragazze di colore in questo momento. Eh sì, diciamo che ho una passione per... Smodata? Sì, sì. Okay. Soprattutto per Lihan Lavas, vincerebbe sicuramente. Va bene, Shantae Khan quindi fra i migliori talenti, e stiamo per chiudere questa puntata, quindi segnatevi i nomi, lo ridico, potete trovare nelle nostre pagine Facebook, in Twitter, in bella esposizione tutte le categorie con tutti gli artisti in nomination. Poi nelle prossime settimane continueremo a scoprire le altre categorie e quindi a fare il computo dei voti. Sì. E vedere chi porterà a casa chi il vincerà. Premio. Chissà chi vincerà. E che cosa vinceranno? Niente, la soddisfazione, tanta stima e tanto amore da parte nostra. Sì, forse anche una pianta di peperoncino. Ecco, quella gliela puoi spedire. Sì. Va bene, allora, se non fosse che poi lì alla dogana americana la fermano non sicuramente. Non la fanno passare. Beh, magari però, li invitiamo a venire in Italia così e a ritirarla personalmente insieme, no? E ritirano la tua pianta di peperoncino. Chiudiamo con l'ultimo talento a nostra disposizione, quello di un polistrumentista, contrabbassista, ma polistrumentista, chiamato Alexander Claffy, giovanissimo, vive, residente a Brooklyn, è lì che ha realizzato il suo ultimo, anzi il primo album da solista per lui. Sì, primo album da solista per lui, che si intitola proprio Claffy, come il suo nome. Come il suo nome, anche questa è una produzione per Rope Dope, e chiudiamo con lui, il brano è Blossoms as They Wilt Away. Claffy al Soundcheck di Radio 24, noi ci risentiamo domani sera, sempre qui dal Groovemaster Studio a partire dalle 19:15. Sì, con Soundcheck Play Music Awards International Jazz. Molto bene, grazie a Francesco Tromba, grazie a tutti voi. Grazie a te, Gigi, ciao a tutti. I can feel you slipping away.